Da un po' di tempo in qua tutti quanti abbiamo dovuto renderci conto che per la medicina questo non è uno dei momenti storici più felici. Cosa a questo mondo si possa curare e con che cosa, alla faccia della scienza, sembra un mistero sempre più oscuro. E dal baratro di questa rassegnazione dunque che apprendiamo della meritoria opera di un esorcista in una stanza insonorizzata dell'ospedale di Legnago. Autorizzato dallo strano connubio istituzionale costituito dal vescovo e dall'azienda sanitaria locale, il sacerdote dell'ordine di San Camillo dell'Ellis, che essendo lui un ricettacolo di malattie fondò l'ordine dei ministri degli infermi e finì patrono dei malati, patrono degli ospedali e patrono pure degli infermieri, a quanto dichiara questo sacerdote, prima si accerta con i medici che non si tratti di altro disturbo e poi, una volta individuata la possessione diabolica, porta i pazienti, diciamo così, nel suo reparto e interviene con le formule di rito. Per quanto più è timorato delle autorità superne, il presidente Scalfaro però a Legnago non è andato, ma più laicamente si è fatto ricoverare all'ospedale Gemelli di Roma, dove l'esorcista, almeno ufficialmente, non è ancora arrivato. In compenso il posto pullula di cappellani che, come tutto il rimanente personale medico e paramedico, sono stati oggetto delle attenzioni dei giornalisti affannosamente in cerca di notizie sulla salute del presidente. Uno di questi è riuscito ad intervistare il superiore dei cappellani e gli ha chiesto se il presidente avesse voluto l'unzione. Non l'estrema unzione, che per un presidente che dice di star benissimo sembrerebbe leggermente esagerata, ma di un'unzione semplice, di quelle intermedie. Il superiore dei cappellani ha risposto allegramente che ci mancherebbe, punto esclamativo, come ebbe forse a dire proprio il presidente Scalfaro l'indomani delle accuse dell'ex ministro Mancuso a proposito di altre unzioni che lo riguardavano, e la cosa ci mancherebbe, e la cosa è finita lì. Male, male, perché la cosa invece meriterebbe di essere approfondita. L'unzione è un residuo delle tradizioni orientali, del versare oli profumati ed essenze sull'ospite in segno di rispetto. Poi passò a designare il segno della consacrazione di sacerdoti, di profeti, luoghi e strumenti del culto. Giacobbe unse la pietra su cui aveva posato il capo, addormentandosi e sognando il Padre Eterno che, anticipando l'Alpitour, gli prometteva mari e monti e viaggi sicuri a poco prezzo. Mosè unse gli altari e gli arredi del tabernacolo. Gli stessi nomi di Cristo e di Messia significano rispettivamente in greco ed in ebraico appunto unto del Signore. Nessuna meraviglia dunque se ben presto gli oli e le essenze diventarono mezzo e simbolo di guarigione. Dal Vangelo di Marco, per esempio, apprendiamo che gli apostoli ungevano gli infermi al fine specifico di risanarli. In un'epoca di esorcismi a tutto gas come la nostra, pertanto, l'umorismo del superiore dei cappellani dell'ospedale Gemelli, che dice «ci mancherebbe, figuriamoci se il presidente Scalfaro ha bisogno di unzione», pare fuori luogo e fin vagamente blasfemo, come ogni connubio fra soluzioni di ordine mistico e scienze biologiche. Il superiore dei cappellani non si rende conto di amministrare un ibrido, o meglio una soluzione che nel corso degli anni è evoluta verso la subordinazione, come la casta sacerdotale che ha dovuto soccombere ai medici e accontentarsi di un ruolo di riserva. Manco è passato per la capa a Scalfaro di andare all'ospedale Gemelli per farsi ungere. C'è andato e ha preferito, che so, l'esame del sangue, la coprocultura, la radiografia, il clisma opaco, la TAC e chissà quali altre diavolerie della scienza moderna. L'unzione Più che una medicina alternativa, anche per un cattolico come lui, si è trasformata nel simbolo di un'alternativa alla vita. La scienza vince nonostante tutte le sue magagne e forse grazie ad esse. A meno che non si vada all'ospedale di Legnago, dove a quanto pare la partita è ancora in equilibrio, dove l'esorcismo è cura e il diabolico è malattia, nel medesimo senso in cui lo sono, che so, gli antibiotici e la meningite, a dimostrazione più chiara di quanto scienza e religione abbiano in comune.